enemy, don't hurt me for this fucking troopers. For this fucking troopers. Tutti i giorni passano e lasciano un segno, se non nel cuore, con lo sdegno, come un assegno posdatato in cui poi il mondo verrà a chiedere il conto. Lascia stare questi stronzi, ti hanno solo voluto scopare. Ti hanno solo voluto scopare. Nessuna notte corre che non ti voglia a fianco, ma sì che ti voglio bene, ora solo con il branco. Vorrei essere con te franco, ma il verso mio voglio rimanga poetico. Rimanga poetico. Verso mio voglio rimanga poetico. Lascia stare quegli stronzi che ti hanno solo voluto scopare. Ti hanno solo voluto scopare. Ti hanno solo voluto scopare. Nessuna lirica del mondo può descriverti meglio della mia. Se quando sento il fondo e riscopro che non sei più mia, lo vedi questo verso scritto a penna e ama. È per l'eterno. È per l'eterno. Eterno. Ci sono versi che indigono, frasi di un inchiostro di versi che poi rimangono. Quanto amore ho regalato senza avere nulla indietro, ma rimane il fatto che il conto, quel fatto maledetto, l'ho pagato. E ora è rimasto solo il paradiso sognato. Ora è rimasto solo il paradiso sognato. Lascia stare gli stronzi, ti hanno solo voluto scopare. Ti hanno solo voluto scopare, scopare. Giustizia per tutti, urla la strada. Vi senti i cani che danzano, quanti mangiano solo faida. E le mosche ronzano anche intorno ai diamanti. Tutti i giorni passano e lasciano un segno, se non nel cuore con lo sdegno, come un assegno postdatato in cui quel mondo verrà a chiederti il conto. Ci sono versi che indigono, frasi di un inchiostro di versi che poi rimangono. Quanto amore ho regalato senza avere nulla indietro, ma rimane il fatto che il conto col fato maledetto l'ho pagato. E ora è rimasto solo il paradiso sognato, il paradiso sognato. Ci sono versi che indigono, frasi di un inchiostro di versi che poi rimangono. Quanto amore ho regalato senza avere nulla indietro, ma rimane il fatto che il conto col fatto maledetto l'ho pagato. E ora è rimasto solo il paradiso sognato, il paradiso sognato. Vieni con me, vieni con me, vieni con me, vieni con me. Lascia stare gli stronzi, ti hanno solo voluto scopare. Ti hanno solo voluto scopare. Giustizia per tutti, urla la strada. E senti i cani che danzano, quanti mangiano solo faida. E le mosche danzano anche intorno ai diamanti. Le mosche danzano anche intorno ai diamanti. Danzano anche intorno ai diamanti. Le mosche danzano anche intorno ai diamanti. Vieni con me, vieni con me, vieni con me, vieni con me, vieni con me.